Ma adesso è il momento di un bel esperimento, un esperimento di teatro alla radio. Dunque, di pezzettini teatrali ne abbiamo trasmessi parecchi in questi giorni, avremo anche degli approfondimenti prossimamente su queste frequenze. Qua però oggi però presentiamo un progetto maturato proprio nel periodo di contenimento. Ha un titolo assolutamente particolare che è Alice, la localizzazione della voce in sistemi disordinati unidimensionali. È un progetto teatrale realizzato da Underwear Theater che prende spunto dalla necessità, cioè dall'impossibilità di lavorare fisicamente, di lavorare col corpo e di potersi incontrare. E perciò in questo periodo di confinamento il teatro è stato reinventato da Underwear in forma audio e di incontro virtuale. Quella che sentiremo fra poco è un'opera di svago, di intrattenimento, ed è un'opera liberamente fruibile perché è rilasciata senza restrizioni. La si può infatti ascoltare e vedere, come sentiremo, su YouTube, ad esempio, forse anche altri, ma sicuramente su YouTube c'è. E beh, direi che originale e bizzarra sono due aggettivi che calzano, che la possono sicuramente caratterizzare. Vi faccio sentire prima un breve estratto. Scusa, gattino, potresti dirmi che strada devo prendere, per favore? Dipende. Dipende in genere da dove vuoi andare. Dove non mi importa molto. Allora, qualsiasi strada va bene. Che arrivi in qualche posto. Per questo puoi star tranquilla. Basta che non ti stanchi di camminare. E come avrete indovinato, il progetto si basa su un adattamento del famoso libro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo progetto ha visto la partecipazione di 7 attori e attrici impegnati ciascuno dalla propria abitazione, dalla propria casa. Questo che sentiremo oggi è fra l'altro la prima parte, perché hanno annunciato che ci saranno altri rilasci che, soprattutto se gradirete, anzi fateci sapere, saremo assolutamente felici di trasmettere qui su Radio Wombat. Ma meglio e più dettagliatamente di quanto sto facendo io la saprà sicuramente presentare il regista, che è Filippo Frittelli, con il quale nei giorni scorsi ho avuto una lunga conversazione dalla quale ho estratto 3 parti, che sono 3 risposte a 3 domande e che trasmetterò adesso, prima di ascoltare l'opera di radioteatro. Allora, Filippo Frittelli è già stato ai nostri microfoni, gli affezionati di Radio Wombat immagino che lo ricordino almeno un paio di volte, l'ultima è stata quest'autunno, in occasione dell'inizio del laboratorio teatrale in Polveriera. In tutte queste volte però non gli abbiamo mai chiesto direttamente di sé, di presentarsi artisticamente, voglio dire. Ho pensato di farlo invece questa volta e ascoltiamo la sua risposta. La domanda del chi è, del parla CD, è sempre la più difficile. Sempre difficile rispondere su di sé, specie che in questo momento questo sé è così oscillante, così in dubbio, perché privati un po' tutti della possibilità di poter fare le nostre cose, coltivare i nostri interessi, in qualche maniera la nostra stessa identità è messa in dubbio dalla situazione. Ma al di là di questa premessa, io, ecco, se mi devo presentare artisticamente, la cosa che dico sempre a me è che mi sento un po' un impostore, in quanto non ho studi artistici canonici, vengo da economia e commercio, da una laurea in economia aziendale, e ho iniziato tutto il discorso artistico sui 30 anni, data età in cui purtroppo ho perso un giovane fratello che era un artista era più giovane di me di 5 anni, lui era un musicista già talentuoso, creativo, compositore sia di testi che di musica. Debbo dire che nel momento in cui è venuto a mancare, persona con cui ero molto legato, fra l'altro, nel momento in cui è venuto a mancare, qualcosa è arrivato su di me in maniera eclatante, in maniera, se vuoi, anche devastante, perché oltre al lutto mi sono sentito sommergere da questa sua identità, da questa sua essenza che veniva a mancare, che entrava in me, e in qualche maniera mi sono sentito istintivamente ereditario della sua assenza, della sua quindi mancata presenza. E ho iniziato in maniera molto intuitiva, molto naif, tutto un percorso artistico che va banalmente, ovviamente sapevo scrivere e leggere, dalla scrittura di pensieri, di poesie, della cura anche del suo lavoro in una maniera anche d'archivio, è andato man mano crescendo e questa esigenza dell'impossibile di completare, di riempire un'assenza come quella della morte che non si può riempire, che poi è un po' tutto il percorso dell'arte, quello di riempire l'assenza, mi ha portato ad andare avanti, a scavare, a vincere ogni tipo di timidezza, ogni tipo di barriera che in me erano molto alte, perché vedevo la mia vita, non dico banalmente, ma magari classicamente, dietro a una scrivania, a un computer, a un lavoro più amministrativo, organizzativo, che ho impreso e che anche mantengo, perché con il quale comunque vivo, ma non immaginavo che da quel punto, da quella, diciamo, che io definisco una sorta di Big Bang del mio percorso artistico, potesse svilupparsi una pianta con una radice fortissima che tuttora continua a salire, a cercare luce. E, appunto, come dicevo, la spinta è stata nell'andare oltre, quello che è stata un po' la sua esistenza artistica di musicista e poeta di mio fratello, per andare su una mia parte creativa che prima mi ha visto come scrittore, pubblicando un paio di libri, e poi per questa necessità impellente di esprimermi, di portare verso l'esterno il bisogno fisico, interiore, spirituale che ha bisogno di uscire, sono arrivato al mondo del teatro abbastanza velocemente, perché mio fratello è venuto a mancare nel 2001 e io già intorno al 2005 completavo già il mio primo paio d'anni di accademie serali di teatro, già con un impegno piuttosto importante da un punto di vista anche semplicemente di un apprendimento, impegni che prendevano varie giornate e molte ore durante la settimana. Velocemente, grazie anche all'incontro con persone con cui ho fatto lunghi tratti degli ultimi 15 anni della mia vita, che sono quelli artistici, dove la parte artistica, diciamo, quasi vince contro tutta l'altra parte più canonica, classica, con cui mi sono formato. Ci sono stati incontri che mi hanno consentito subito di sviluppare doti creative, registiche e attoriali, andando già dal 2005 a proporre spettacoli con mie regie e mie scritture. Perché in me c'era questa, penso, questa esigenza, questa necessità di andare comunque oltre quello che si sa, e nel caso della morte che cosa si sa? Si sa che uno va via e non si sa dove va, fondamentalmente, al di là delle risposte religiose. Però cercare oltre, quello che si sa attraverso lo strumento che è del sentire, cioè attraverso quello che si sente, credo che sia un po' la base della ricerca del mio lavoro artistico. Ecco, questa era la prima delle tre risposte di Filippo Frittelli, ma continuiamo intanto perché la seconda domanda alla quale sta per rispondere Filippo Frittelli riguarda ad Underwear Theater. Cos'è Underwear Theater? Qual è anche la storia e come si caratterizza l'attività di questa compagnia? Candy came from out on the island. In the back room. Partiamo intanto dal nome, Underwear Theater, Underwear dall'inglese significa intimo, in mutande, sottoveste, per dirla più elegantemente. L'idea nasce così, era il 2012 e venivo dall'ultima esperienza della compagnia Industry Low Cost che condividevo con Lorenzo Berti, in cui nacque il primo progetto su Alice, di cui riferirò dopo. L'idea era quella di dare un nome, ovviamente come si cerca un po' tutti nell'arte, singolare, che si distinguesse, fosse anche simpatico, non troppo pesante, ma che fosse anche rappresentativo di una verità. E il discorso di essere in mutande, mi fa un po' sorridere, ma è vero, io per tanti anni, nei miei spettacoli, non so per quale maniera, alla fine finivo sempre in mutande o meno, anche a volte, e lo stesso avviene oggi come attori che dirigo, perché in me c'è sempre questa esigenza, questa necessità di liberarsi, di andare verso un'estrema verità, un iperrealismo, un iperverismo, e il corpo nudo, senza alcun inframezzo e senza ombra du di dubbio, la cosa meno ambigua del mondo, la più veritiera. Ovviamente il concetto di teatro nudo, o nudo teatro così, è un po' già usato, un po' forse era troppo. Allora il discorso di essere in mutande, giocando un po' sullo scherzo, però messo in inglese, in un momento in cui le parole inglesi comunque non era per avere la puzza sotto il naso, ma una decina d'anni fa, cioè, con un maggior senso europeista, ci poteva tranquillamente stare. Poi oggi siamo un po' tutti ritornati entro i confini, ma all'epoca era anche abbastanza frequente la circolazione di compagnie emergenti fra i vari festival europei. Oggi è già più difficile. Ma lasciando stare questo discorso, appunto, un teatro in mutande che aveva anche ed ha un ulteriore significato, che traslando, facendo una metafora, essere in mutande vuol dire essere poveri, cioè un teatro che non ha fronzoli, cioè un teatro essenziale. Ora la dicitura poveri, teatro povero, viene da Grotowski, dagli anni 50, una definizione ormai accademica di un teatro che fondamentalmente utilizza i corpi, gli attori e lo spazio scenico con pochissimi elementi, se questi elementi, se ci sono, sono materiali poveri, costruiti in economia, in autogestione, eccetera. Sì, è questa definizione comunque mi appartiene, cioè non ho mai fatto produzioni che imponessero voglio quella scenografia che costa 2000 euro, voglio quei costumi, quelle parrucche, ho sempre utilizzato materiali e i luoghi così come li trovavo, andando poi a elaborare, a costruire, a intervenire anche con le capacità varie, individuali, che si sono aggregate nel tempo con me. Però ecco, il concetto di essenzialità, di avere non troppi orpelli, ci sta dentro il discorso underwear. E quindi anche in questo caso cogliere questo significato. Fondamentalmente quando è nato, sono nato, ero da solo perché mi scindevo da una precedente esperienza di collaborazione con un altro attore e regista. E per i primi anni sono andato molto in collaborazioni one to one. Quindi Underwear Theater è stato veramente una sorta di mini gruppo performativo in cui mi sono abbinato di volta in volta al ballerino, alla cantante, al musicista, al poeta, a tantissimi campi dell'arte con cui ho potuto anche allargare molte cognizioni. Solo nell'ultima parte, negli ultimi 3 o 4 anni, anche grazie all'incontro con la Polveriera, che Underwear Theater si è strutturata più come compagnia, iniziando io a effettuare un laboratorio presso la Polveriera, appunto, che mi ha permesso di raccogliere e di unire degli allievi che via via si sono formati e in questo momento sono, diciamo, parte, quelli di più lungo corso, parte integrante, della compagnia. Ecco, e infine, gli ho chiesto di introdurci lo spettacolo che stiamo per ascoltare. Già fa strano dire questo. Sentiamo la risposta e poi direi subito dopo, senza interruzioni, anche perché non servirà aggiungere altro al commento di Frittelli, andiamo a goderci questa pièce assieme ai moltissimi ascoltatori di oggi. Ricordo, si intitola Alice, la localizzazione della voce in sistemi disordinati unodimensionali. Ascoltiamo l'introduzione e poi questa pièce. Wombat. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. Non posso negare che a volte una pausa può non essere negativa, nel senso che può essere anche salutare. In qualche maniera una pausa che porta in maniera naturale ad una riflessione, credo che ci aiuti a togliere un po' di quell'ipocrisia che normalmente si accatasta quotidianamente nel nostro fare umano di tutti i giorni. Ma allo stesso tempo non si può negare che gli artisti siano uomini d'azione. E quindi l'idea era, la voglia, l'istinto era quello di far qualcosa in questo periodo, però come essere veri? Come essere in quanto compagnia di teatro e quindi nel divieto assoluto di incontrarsi e quindi di manifestarsi in maniera corporale, che è quello che fa un attore o un insieme d'attori, e allo stesso tempo creare qualcosa che avesse un senso in questo periodo di contingentamento in cui siamo tutti separati, localizzati in posti diversi, e che l'unica maniera in cui potersi in qualche maniera incontrare è negli spazi virtuali. Spazi virtuali che però allontanano il teatro, perché se si parla di teatro si parla di qualcosa che accade in maniera veritiera davanti a noi, quindi con un pubblico convocato per l'occasione, con degli attori sul palcoscenico che usano i loro corpi, hanno un odore, un sudore, dei movimenti veri. E quindi rifiutiamo noi anche integralmente il concetto di teatro in video, anche, anzi, lo troviamo anche un po' patetico tutto questo manifestarsi di video su arti che sono altro linguaggio, che non sono quello. Per quello ci sono attività specifiche come il fare un film, il fare uno sceneggiato, il fare un video, che ha tecniche e principi totalmente diversi dal teatro, che è l'accadere in scena performativo in tempo reale di fronte ad un pubblico in carne ed ossa. Quindi, con queste riflessioni, l'idea che mi è sorta, e che ho condiviso con la mia compagnia era quella di una restituzione audio. Audio in quanto verità, in quanto possibilità di uscire dal soggettile dello schermo che è piatto, ma l'audio, e qui siamo in una radio e quindi quello che dico ha sicuramente terreno fertile e accogliente, non è per piaggeria, audio in quanto corpo che si espande, per dirla con Valerie Novarina, cioè questa parte della nostra anima che esce dallo sfintere della bocca e si espande per uno spazio che solitamente è il palcoscenico ed il teatro, in questo caso dall'etere passa agli orecchi di chi ascolta. E in questo ho visto una verità, molto più che sulla parte video. E su questo, diciamo, direzione di ricerca, su questa in qualche maniera volontà creativa di fare qualcosa di veritiero, mi sono agganciato alla bellissima favola, al discorso di Alice di Carroll, progetto che avevo già visitato con la mia compagnia precedente, ma che mi è tornato istintivamente a galla nella mia mente, perché credo senza ombra di dubbi che, ripercorrendo un attimo la storia di Alice, che è un po' questo cadere del personaggio in un mondo, in una caduta, in un mondo di nonsense, di regole capovolte, in cui gli animali, le cose, le piante si comportano come umani e gli umani sono diventati delle cose strane a cui si reagisce in maniera sorprendente, in cui i concetti sono rovesciati, in cui c'è una follia dilagante, quindi un assurdo, un nonsense. Questa, diciamo, contenuti di Alice in Wonderland li ho visti molto, in qualche maniera, attinenti a quello che stavamo vivendo, specie nei primi giorni. Ora, ovviamente, ci siamo tutti adattati a questa situazione di privazioni, di libertà limitate, di movimenti ristretti, a questa situazione di una regia, diciamo, unitaria che ci è scesa dall'alto, sotto regia imposta da un governo o da un uomo di governo, che in qualche maniera ci ha detto che cosa potevamo fare o non fare, come muoverci o come non muoverci, e cosa doveva essere aperto e cosa doveva essere chiuso. E quindi veramente la realtà è diventata, a mio modestissimo parere, un contesto teatrale, ovviamente giusto, nel senso, qui non ci mettiamo a dare giudizi, nel senso di contenimento della diffusione del virus, o quanto credo e penso, per quello che è il mio punto di vista, ritengo sia stato giusto. Però non si può negare che, pur nella accettazione razionale di quello che accadeva e comunque imposta, perché altrimenti scattavano i divieti, le multe, gli arresti e la caccia da parte delle forze dell'ordine, a questo mondo nuovo che si è presentato in qualche maniera più buio, ma buio non nel senso di un mondo negativo, ma nel senso concettuale, quindi di un mondo di chiusura, il nostro corpo ha reagito e le sensazioni sono state tutte quelle, in qualche maniera, dallo stupore, dalla sorpresa, dall'essere in qualche maniera scioccati da questa suggestione delle strade vuote, degli esercizi commerciali, delle stazioni vuote, delle vie, dei corsi vuoti, delle tranvie, degli autobus, dei treni che giravano con tre persone a bordo. Quindi una situazione veramente che ci è caduta addosso, suggestiva, in qualche maniera alienante, e che ci ha portato ad avere ovviamente delle reazioni. Quindi questo, venendo tutto questo per dire che questa cosa ci è venuta dalla realtà. Quindi, cosa diveniva vero nel nostro quotidiano, nella nostra intimità, se solitamente facendo arte, facendo teatro, andiamo a cercare di trasfigurare in qualche maniera una nostra ricerca, la nostra attività, cercando attraverso una finzione, una rappresentazione artistica, scenica, il più possibile bella e quindi il più possibile vera, il più possibile diciamo anche elaborata nella sua forza di dare un messaggio, in questo frangente il messaggio invece teatrale ci viene dalla realtà stessa. E a questo punto, venendoci dalla realtà, il nostro compito forse in qualche maniera era di tradurre questa realtà nuova in qualcosa che potesse accoglierla. E il discorso, ecco qui che ricade il discorso di Alice, delle regole stravolte, della caduta nel vuoto, del non senso, mi è parso assolutamente adatto a raccogliere tutto questo. E semplicemente anche andando a leggerlo in maniera con dettagli, con degli piccoli adattamenti più o meno legati al contemporaneo, ma non facendo molto, molto altro di più, perché se vado nel ricordo, nell'adattamento precedente, e vado a spiegare anche il sottotitolo molto lungo e molto curioso, perché questa performance, questa piece si chiama Alice, la localizzazione della voce in sistemi disordinati unodimensionali, che è un sottotitolo che ho preso praticamente dalla tesi di un compagno di corso di laurea a fisica ad Arcetri di mio fratello, come ho detto in precedenza, che è scomparsa, che è stata un po' la mia radice dello sviluppo artistico. Negli anni successivi alla sua scomparsa trovai questa tesi in cui questo compagno di corso dedicava a Lorenzo Frittelli, a tutto quello che avrebbe potuto essere questa tesi con questo titolo, che al posto della parola voce aveva la parola luce, quindi la localizzazione della luce in sistemi disordinati unodimensionali. Io ho tradotto in voce, in qualche maniera allacciandomi ovviamente al ricordo, alla memoria di mio fratello, che in qualche maniera è questo dialogo con i morti sempre presente, come se fosse lui lo spettatore invisibile di quello che produco, in una sorta di ricerca da parte mia sempre di una sua accettazione. Se nel precedente adattamento con Lorenzo Berti la ricerca era di un'iperfinzione per andare a scovare dei messaggi ancora più profondi, in questo caso, diciamo, l'iperfinzione reale che ci viene dall'esterno, in questo mondo in cui, come dicevo, la regia cade dall'alto, ci sono i poliziotti, le guardie, la caccia, i malati, purtroppo, quelli che guariscono, quindi un mondo con delle regole, un mondo di malattia, di pandemia, che quindi ha una situazione assolutamente chiara e dettagliata nelle tutte le sue sfaccettature. Questa localizzazione era, diciamo, l'attestare, il manifestare quello in cui viviamo oggi, localizzati tutti in posti diversi, in maniera disordinata, perché non l'abbiamo scelto, ognuno dove si è trovato, chi era fuori per studio, chi era in un altro posto per altri motivi, chi era dalla compagna, chi dal compagno, chi dal parente, è rimasto lì. In questa localizzazione disordinata, unodimensionale, perché tutti in maniera individuale e viviamo anche individualmente, ci spostiamo da soli a distanza, eccetera, l'esprimersi con la voce. Ed ecco che Alice è diventato questo progetto audio web, a cui in cui vi è stato un montaggio di voci dei diversi attori da parte di Ludovica Rio, che si è prestata all'elaborazione sia audio e di tutti gli effetti sonori e anche della grafica, per chi lo vorrà vedere, ha comunque anche un discorso grafico che si può vedere su YouTube, anche se fondamentalmente per me il progetto è audio e quindi l'attore che si esprime con la voce che diventa corpo, materialità e anche tutti gli effetti sonori all'interno di questo mondo che creano una regia, una suggestione di concretezza, di pragmaticità. Andando a descrivere un po' quello che abbiamo fatto, che nella nostra idea è un progetto 1 che avrà un seguito, la pièce si compone di 3 atti. Il primo inizia con un processo, perché è stato il sentire più immediato, il più radicale, il più vicino a quello che facevamo tutti i giorni, che non si poteva più uscire, almeno che non avessi un foglio, un'autorizzazione. La polizia, le forze dell'ordine subito all'istante in agguato, quindi essere un po' tutti sotto processo e doversi giustificare, in questo caso perché eravamo fuori. E comunque dovevamo in qualche maniera giustificare la nostra esistenza che è divenuta totalmente controllata e quindi inizia con un processo. Poi c'è la scena, una delle scene più romantiche di Alice, la scena col gatto, il gatto, il famoso gatto che sta sugli alberi, che gioca con la sua testa e che rappresenta un po' la follia in cui diciamo una frase emblematica che dice ad Alice: qui siamo tutti pazzi. Ecco, questa follia che è iniziata a dilagare. E poi la scena, credo, più bella di Alice, che è quella, la scena del cappellaio matto, la scena del tè, dove Alice raggiunge in un percorso che è senza meta, come quello nostro forse, in qualche maniera, raggiunge il cappellaio matto, la lepre marzolina e il ghiro, che sono a festeggiare i loro non compleanni, nella scena del tè. Anche qui è molto simbolica e molto di richiamo, perché gli orologi non segnano le ore ma i giorni, e quindi c'è questo concetto del tempo e della memoria che si dilatano, che in qualche maniera si azzerano, ci si perde in questi giorni che non hanno più un orario preciso, definitivo, in cui tutto è dilatato, allargato e anche il nostro modo di agire subisce in qualche maniera una rarefazione. Ecco, questo è, diciamo, in sintesi la descrizione di quello che abbiamo fatto. A questo punto, prima di salutare, vado ad elencare a memoria velocemente, perché sto parlando a braccio, gli attori. Abbiamo in ordine sparso, abbiamo Giorgia Stornanti nella regina, abbiamo Ettore Petrioli nella lepre marzolina, Michele Iommi nel gatto, Ludovica Rio in Alice, il sottoscritto nel cappellaio matto e Valentina Tosi nel coniglio bianco. Nell'ultimo atto tutte le attrici interpretano a rotazione Alice. Io non posso altro che ringraziare Radio Wombat per tutto lo spazio che ci ha concesso ad Underway Theater e augurarvi buon ascolto. Araldo, leggi l'accusa! La regina di cuori preparò le tartine in un giorno d'estate, ma il furfante di cuori che rubò le tartine, ora se le è mangiate. Emettete il verdetto! Manca ancora molto per arrivare al verdetto! Chiama il primo testimone. Primo testimone! I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Chiedo scusa a vostra maestà se mi presento con queste cose in mano, ma quando sono stato mandato a chiamare, non avevo ancora finito di bere il mio tè. Avresti dovuto finire. Quando hai cominciato? Mi pare il 14 marzo. E quelli che? Il 16. Prendete nota. 14 più 15 più 16 uguale 45 euro pari 87,132 delle vecchie lire. Togliti il cappello. Non è mio. Rubato. Li tengo per venderli. Non ho cappelli miei. Sono un cappellaio. Fai la tua deposizione. E non essere troppo nervoso, altrimenti ti faccio decapitare immediatamente. Per favore, non spingermi così. Non riesco neppure a respirare. Che ci posso fare? Sto crescendo. D'ora innanzi io vorrei che voi siate più avara della vostra virginia presenza e poniate i vostri trattenimenti a un prezzo più alto che di un ordine d'udienza. Non hai diritto di crescere qui. Fai la tua deposizione o ti faccio decapitare anche se non vuoi. Sono un poveraccio, maestà. Avevo appena cominciato a bere il tè, circa una settimana fa, e le fette di pane imburrato diventavano sempre più sottili, sottili, sottili. Il tremolio del tè. Il tremolio di che? Il tremolio cominciò col tè. Vorrai dire con la T. Lo so, non sono un asino. Continua. Sono un poveretto. Ma la lepre marzolina disse... Non l'ho detto! L'hai detto! Nego! Lo nega! Lascia andare! Ad ogni modo, il ghiro disse... Allora preparai una fetta di pane col burro. Ma... che aveva detto il ghiro? Questo non lo ricordo. Scusa, gattino, potresti dirmi che strada devo prendere, per favore? Dipende. Dipende in genere da dove vuoi andare. Dove non mi importa molto. Allora, qualsiasi strada va bene. Pur che arrivi in qualche posto. Per questo puoi star tranquilla. Basta che non ti stanchi di camminare. Abita da queste parti? Da quella parte abita il cappellaio. Dall'altra abita la lepre marzolina. Puoi far visita a chi vuoi. Sono pazzi tutti e due. Ma io non ho nessuna intenzione di andare fra i pazzi. Ah, ah, non ne puoi fare a meno. Qui siamo tutti pazzi. Io sono pazzo. E anche tu sei pazza. Come fai a dire che io sono pazza? Ma devi esserlo, altrimenti non saresti arrivata fin qui. Tu come fai a dire di essere pazzo? Intanto possiamo dire che i cani non sono pazzi. Sei d'accordo? Sì, mi pare. Bene. Tu sai che i cani, quando sono arrabbiati, brontolano. Quando invece sono contenti, muovono la coda. Io invece, quando sono contento, brontolo. E quando sono arrabbiato, muovo la coda. Perciò sono pazzo. Ma io quello non lo chiamo brontolare. Lo chiamo fare le fusa. Ah, chiamalo come ti pare. Vai a giocare dalla regina oggi? Mi piacerebbe molto. Ma per ora non mi ha invitata nessuno. Ci rivedremo là. A proposito, che è successo al bimbo? Si è trasformato in un maiale. Lo sapevo che sarebbe finita così. Hai detto caviale o maiale? Maiale. Staccatemi questa da questo se le cose stanno altrimenti. Va bene, va bene. Non c'è posto, non c'è posto! Non c'è posto! Non c'è posto! Non c'è posto! Non c'è posto! Non c'è posto! Non c'è posto! Ce n'è anche troppo di posto. Vuoi un po' di vino? Non vedo vino. Non ce n'è infatti! Allora non è stato gentile da parte tua offrirmelo? Non è stato gentile da parte tua sederti senza essere stata invitata! Non sapevo che fosse la vostra tavola. È apparecchiata per più di 3 persone. I tuoi capelli avrebbero bisogno di una sforbiciata! Non si fanno appunti alle persone, è cattiva educazione. Perché un corvo assomiglia ad uno scrittoio? Credo di saperlo. Vuoi dire che credi di poter trovare la risposta? Proprio così. Allora dimmi subito quello che credi! Come volete, vi dico quello che credo, perché io quello che credo dico. È la stessa cosa. Non è per niente la stessa cosa! Vorresti forse sostenere che la frase «vedo quello che mangio» ha lo stesso significato di «mangio quello che vedo»? O vorresti sostenere che la frase «mi piace quello che prendo» ha lo stesso significato di «prendo quello che mi piace»? E vorresti forse sostenere che la frase «respiro quando dormo» ha lo stesso significato di «dormo quando respiro»? Per te è la stessa cosa! Che giorno del mese è oggi? Il 4! È indietro di 2 giorni! Te l'avevo detto che il burro non è buono per aggiustare gli orologi! Ma era burro di prima qualità! Sì, sì, ma devono esserci scivolate dentro anche le briciole! Non avresti dovuto spalmare il burro sull'orologio col coltello del pane! Eppure era burro di prima qualità! Che strano orologio! Segna i giorni e non le ore! E perché dovrebbe segnarle? Il tuo orologio per caso segna gli anni? Naturalmente no! Se fosse così resterebbe immobile nella stessa posizione per un mucchio di tempo! Proprio come fa il mio! Non capisco bene... Ecco! Il ghiro si è addormentato un'altra volta. Hai risolto il mio indovinello? No, ci rinuncio. Qual è la risposta? Non ne ho la minima idea! Ed io neppure! Mi pare che potreste spendere meglio il vostro tempo invece di starvene a proporre indovinelli che non hanno nessuna risposta. Allontanarsi dalla linea gialla. Se tu conoscessi il tempo come me, non parleresti di perderlo. È lui che fa così. Non capisco. Lo so che non capisci. Scommetto che non hai mai parlato con il tempo. Non mi pare. Ma so che quando studio musica devo batterlo. Adesso capisco. Ma lo sai almeno che lui non sopporta di essere battuto. Se tu riuscissi a restare in buon accordo con lui, ti farebbe con l'orologio tutto quello che desideri tu. Per esempio, supponi che siano le 9 del mattino, l'ora in cui devi cominciare le lezioni. Ecco, basterebbe che tu mormorassi una parolina al tempo e in un attimo sarebbero già le 12:30, l'ora del tè. No! È l'ora del pranzo! Magari fosse l'ora di pranzo! Sarebbe bello davvero, però se fosse così potrei non avere fame. Al principio forse no, però potresti fermare l'orologio sulle 12:30 finché ti piace. Fate così voi? No, io no purtroppo. Abbiamo litigato lo scorso marzo, proprio prima che lei diventasse matta. Fu al concerto della Regina di Cuori. Io dovevo cantare "We are the champions, we are the champions, no time for losing, cause we are the champions of the world." We are the champions, we are the champions. Insomma, avevo appena finito la prima strofa quando la regina saltò in piedi e si mise a urlare: "Sta assassinando il tempo! Tagliategli la testa, la testa!" Ma come è crudele! Da allora, il tempo non vuole fare più niente di quello che gli chiedo. Così per me sono sempre le 5 del pomeriggio. È per questo che avete apparecchiato per il tè? Appunto per questo. È sempre l'ora del tè, non abbiamo neppure un po' di tempo per lavare le tazze. Allora vi spostate in giro per il tavolo via via che lo sporcate. Esattamente. E quando dovete ricominciare il giro? Meglio cambiare discorso. Sono stufa di sentir parlare di tazze. Propongo che la signorina ci racconti una storia. Mi dispiace, non so nessuna storia. Allora ce ne racconterà uno il Ghiro. Sveglia Ghiro, sveglia Ghiro, sveglia. Raccontaci una storia, per favore, dai, raccontacela. Sì, per favore, raccontala, raccontala subito. Altrimenti ti addormenti prima di finirla. C'erano una volta tre sorelline che si chiamavano Elsa, Tilde e Luisa, e vivevano in fondo a un pozzo. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono. E cosa mangiavano? Mangiavano melassa. Ma non potevano! Si sarebbero ammalate! Infatti lo erano! Erano molto ammalate! Ma perché abitavano in fondo un pozzo? Prendi un altro po' di tè! Non ne ho ancora avuto! Perciò non posso prenderne un altro po'! Vorrei dire che non puoi prenderne di meno, ma prenderne più di niente è molto facile! Nessuno ha chiesto la tua opinione! Chi è che fa appunti alle persone? Mettetela la mascherina! Ma perché abitavano in fondo un pozzo? Era un pozzo di melassa! Ma se non esistono? Se non sai essere educata, sarà meglio che la storia te la finisca da sola. Scusami, ti prego, non interromperò più. Ammettiamo che ne esista uno. Altro che uno! Queste tre sorelline impararono a tirar fuori... Che cosa? La melassa! Vorrei una tazza pulita! Spostiamoci tutti di un posto! Non ho capito bene. Da dove tiravano fuori la melassa? Se da un pozzo d'acqua si tira fuori l'acqua, è chiaro che da un pozzo di melassa si tira fuori la melassa! Non è così, stupidina? Ma se erano in fondo al pozzo? Certo che c'erano e ci stavano bene. Imparavano a tirar fuori e tiravano fuori cose di ogni genere. Tutte che cominciano per M. Perché quelle che cominciano per M? E perché no? Come mano, misura, mena, memoria, molto. Per esempio, noi spesso diciamo molta memoria. Avete mai visto tirar fuori da un pozzo qualcosa come molta memoria? Veramente? Adesso che me lo chiedi, non ricordo. Allora non dovresti mai parlare.